657. Budino di semolino. Dosi precise. Latte decilitri 8. Semolino grammi 150. Zucchero grammi 100. Uva passolina grammi 100. Burro grammi 20. Uova numero 4. Rum 3 cucchiaiate. Sale una presa. Odore di scorza di limone. Alcuni aggiungono pezzetti di candito, ma il troppo condimento talvolta guasta. Dopo averlo preparato e tolto dal fuoco, cuocetelo in uno stampo liscio o lavorato, unto prima col burro e spolverizzato di pan grattato. Mancando il forno comune o da campagna, i budini possono cuocersi bene anche in un fornello del focolare. Questo budino servitelo caldo.